Ah, belli di casa, buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio di Il Grande Reset, il programma fatto da me, insieme a me stesso e da solo in una stanzetta con un microfono davanti alla bocca alle 7 di mattina, quando uno potrebbe starsene tranquillamente sbragarellato sotto le pezze, ma noi siamo qui per dare un supporto, per dare energia, per dare il inizio dell'inizio del weekend, perché sapete che a Londra, e questa è una cosa che ho imparato quando sono stato a Londra, quando sono stato a Edinburgh, il fine settimana non è come da noi, il fine settimana inizia il venerdì alle 5, ovviamente, quando si stacca dal lavoro e niente, bisbocce, però ovviamente poi rispetto agli anni 80, 70 e 90, insomma, il mondo è un po' cambiato, ma in generale comunque questa cultura loro del weekend che inizia prima perché è un po' più lungo del nostro, sicuramente c'è, cioè, permane, considerando a livello giovanile, poi tra l'altro che noi ci abbiamo avuto, perlomeno quelli della mia generazione, la scuola che era attiva anche il sabato, cioè il sabato si andava a scuola nel Regno Unito, col cazzo che si andava a scuola il sabato, e quindi quelli un po' più giovani, comunque pure quelli il venerdì sera, ciao, si ribeccamo lunedì, insomma. Comunque, al di là di tutto, faccio, allora, intanto è uscito la puntata di Data Nightmare questa settimana con una certa regolarità, stanno uscendo, anzi ne sono uscite due, perché è uscita anche una puntata in inglese che è relativa alla puntata italiana della scorsa settimana, tradotta in inglese perché Walter ci teneva di far sapere al mondo, insomma, e il problema è che secondo me quello in inglese o lo fai con costanza o però va bene, noi rispettiamo tutto e siamo qui per lavorare e dare un servizio a tutti quanti. Mentre è uscito anche Snap Architettura Imperfetta, come avete visto, perché siete interessati ovviamente all'architettura e al mondo Apple e alla tecnologia, comunque è il podcast che fa per voi. Per quanto riguarda invece, ringrazio poi Walter che ieri sera ha fatto il lancio alla puntata di questa mattina, mi dispiace di mancare questa cosa, non volevo saltare la live perché questo è un periodo in cui bisogna presidiare le live e poi parleremo anche di questa cosa, però volevo prepararla bene la puntata e ieri mi sono proprio reso conto una cosa che poi sappiamo benissimo, insomma, senza nessun tipo di problema, il fatto che senza internet oggi non puoi manco guardare la televisione praticamente, quindi l'avere l'idea precisa di come volevi fare la puntata, però senza avere poi l'opportunità di scriverla, o quantomeno scrivere le tappe, diciamo, i punti della puntata, e andare a fare quelle ricerche che erano importanti per cercare un po' di riprendere il filo di cose che non siano solo legate alla memoria, che spesso sapete la memoria poi le cose si ricorda come gli pare a lei, e non l'ho potuta fare stamattina, non me la so sentita di farla male, quindi la rimando alla prossima settimana, perché comunque è una puntata che ci tengo tanto, per me è molto importante, è una cosa che avevo pensato di fare anche diverso tempo fa, forse in qualche maniera l'avevo anche accennata, però insomma c'è tutto un connubio. E poi, lo sapete, la cosa ancora più incredibile è che in realtà non avevo un tema preciso per questa settimana, solo che ieri mattina, vi devo dire la verità, non ricordo neanche per quale motivo, mi è capitato di sentire questa canzone qua e mi si so, mentre che l'ascoltavo questa canzone, sto per farvi sentire, mi si sono accesi completamente milioni di ricordi, neuroni, cose, perché a volte quando tu leghi le tue esperienze anche personali o politiche o comunque le avventure della tua esistenza, diciamo, a un artista che per te ha avuto un certo tipo di importanza, e diciamo che le cose migliori ti possono venire in mente quando senti i capisaldi di quell'artista. In realtà a volte mi è capitato, e questo è quello che è successo ieri mattina, che i ricordi più importanti si sono accesi ascoltando una canzone che penso che in pochissimi hanno ascoltato e che anche io ho ascoltato poche volte, anche se poi quando l'ascoltavo quelle poche volte magari me l'ascoltavo 5 volte di fila, per dirvi. Quindi ecco, diciamo, la canzone che incriminata per la quale ovviamente voglio fare questa puntata, che purtroppo sono costretto a rimandare la prossima settimana, è questa qui. E questa è Ciao Ciao da Scacchi e Tarocchi, che è uno dei dischi che, di Francesco De Gregori, che amo di più. Eppure è un disco che è stato contestatissimo, ma poi appunto racconteremo in un'altra sede, in un altro momento. E questa è una canzone che penso, non so quanti la conoscano, eppure sono quelle canzoni che tu le senti di striscio e ti si riaccendono quei ricordi di quel momento in cui stavi facendo quella cosa e una radiolina da qualche parte in un'altra stanza in lontananza suonava magari questa canzone, e quindi c'è sempre un po' una sorta di legame, perché secondo me i ricordi, gli odori e i suoni sono proprio cose completamente unite, che si intrecciano in una maniera incredibile, ma come ho detto ne parleremo. Invece adesso voglio parlare invece di un'altra cosa, così per far felice Walter, e ne voglio parlare perché voi lo sapete che io sto puntando molto su questa cosa, per chi mi ascolta, per chi segue un po' Runtime, perché mi piace come idea, la trovo divertente, la trovo stimolante anche proprio come sperimentazione, e quindi ci sto concentrando molte energie su questo progetto, perché il primo evento l'abbiamo fatto casuale, il secondo evento lo stiamo strutturando molto meglio. Intanto c'è Alexa della che parla, vabbè, e parlo di questo. Avete la passione per la musica e l'intelligenza artificiale? Allora non potete perdervi il Festival della Canzone Artificiale 2025, organizzato da Runtime Radio. Questo concorso, giunto alla seconda edizione, è aperto a tutti e completamente gratuito. Dovete solo creare un brano musicale originale utilizzando l'intelligenza artificiale e inviarlo a runtimeradio@gmail.com entro il 29 dicembre 2024. La canzone può essere di qualsiasi genere o tema, ma deve essere completamente generata da un'IA senza alcun editing post-produzione. Una giuria di esperti e il pubblico voteranno le canzoni per decretare il vincitore assoluto del Festival della Canzone Artificiale 2025. Non perdete questa occasione unica di mostrare il vostro talento musicale e di far parte del futuro della musica. Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento completo, visitate il sito web ufficiale dell'evento all'indirizzo www.festivaldellacanzoneartificiale.it o inviate un'email a runtimeradio@gmail.com. Iscrivetevi subito e preparatevi a far sentire la vostra musica al mondo. Festival della Canzone Artificiale 2025 è un evento Runtime Radio, la web radio geek. Ogni nota è un viaggio, un sogno virtuale, corriamo tutti a votare. Festival della Canzone Artificiale, ogni algoritmo lo stile, ogni prova armonia, noi solo servizi gratis, ma la tua è uguale alla mia. La musica viaggia da lì in mezzala, senza crediti si ferma a Carrara. Non fa la formica, fai la cicala. Dona Runtime, se no che cazzo paga? Questo... Dona Runtime, se no che cazzo paga? E questo è un punto importante. Dona Runtime, se no chi cazzo paga, no? E penso che sia proprio il sunto di un messaggio subliminale all'interno di uno spot che parla di un'altra cosa. Bellissima sta cosa, l'ho trovata incredibile, anche se lo spot mi è stato molto criticato, ha ragione, perché è uno spot, per essere uno spot radiofonico è uno spot lungo, che andava condensato molto probabilmente, ma sapete, questo è un po', questo è Runtime, noi facciamo un po' quello che cazzo ci pare, che tra l'altro tra virgolette viene tradotto con facciamo quello che sappiamo fare, perché non è detto che insomma, il nostro mestiere sia quello di fare spot o concepire spot. Detto questo, è anche carino, perché comunque c'ha la giusta energia, a parte questi tagli feroci sulla parte dello speech di Leo, che sembrano i tagli che fanno gli youtuber, no? Quelli che non devono lasciare proprio, ma se no sarebbe durato ancora di più lo spot. Quindi ho fatto questa specie di cosa un po' selvaggia, ma magari lo rifacciamo lo spot, adesso per ora vale questo. E come abbiamo detto, abbiamo lanciato, come vi avevo già annunciato anche sul Grande Reset, abbiamo finalmente lanciato ufficialmente il Festival della Canzone Artificiale edizione 2025, la seconda edizione di questo festival. Vi invito a mettere tra i bookmark dei vostri browser il blog ufficiale, che è festivaldellacanzoneartificiale.it, dove non solo troverete tutte quante le informazioni, ma troverete, diciamo, a distanza di uno o due giorni anche diversi articoli che usciranno, che vi daranno, insomma, all'attenzione, a destra, insomma, sul progetto, e che magari daranno anche informazioni. Abbiamo pubblicato quello che è il regolamento ufficiale, che, per quanto sia semplice da un certo punto di vista, nel senso, è un regolamento che non c'ha, diciamo, cavilli particolari, è un regolamento abbastanza pulito, dove le regole sono poche ma chiare, però gli abbiamo dato una struttura rispetto alle altre volte, e questa volta non siamo intervenuti in corsa per fare determinate cose, anche se l'ultimissima voce del regolamento dice sempre che comunque l'organizzazione si riserva, diciamo, la possibilità, diciamo, non la certezza, ma la possibilità di poter modificare aspetti del regolamento a secondo delle necessità, perché poi chiaramente è ancora esperienza che stiamo facendo in merito a questa cosa. Poi mi sono arrivate mail, insomma, mi sono arrivate diversi input di interesse a livello generale su questa iniziativa, che viene considerata un'iniziativa innovativa, e questa è una cosa che a me fa piacere, perché comunque il fatto che venga riconosciuto, che abbiamo avuto un'intuizione, che magari ci hanno avuto in tanti che però non l'hanno fatta perché non avevano magari la piattaforma, non sapevano che format dargli, roba del genere. Noi comunque, avendo questa nostra esperienza radiofonica ormai da anni, abbiamo pensato di trasformare quello che sarebbe un festival che faresti live con chi canta, solo che con le canzoni artificiali. Quindi sono contento anche del riscontro che c'è stato in precedenza e del riscontro che già c'è adesso. Vi invito a leggere in maniera chiara, a leggere in maniera attenta il regolamento, perché anche se le regole sono poche e chiare, comunque vanno rispettate. E ciò nonostante, per esempio, oggi ieri pomeriggio, nel blog ufficiale, che ripeto è festivaldellacanzoneartificiale.it, abbiamo pubblicato l'articolo dove presentiamo il primo giurato della giuria di qualità, che è Leo Varghion, e c'è anche, insomma, una sua dichiarazione molto spontanea all'interno dell'articolo. E poi usciranno articoli dove cercheremo di dare dei suggerimenti su come realizzare un prodotto di qualità, perché noi riteniamo che comunque questa cosa è un gioco, è una sfida così ludica, e non attribuiamo una importanza, questo l'ho dovuto spiegare nei giorni scorsi a decine di persone, non attribuiamo questa cosa di generare musica con l'intelligenza artificiale come il futuro della musica, però è un gioco, è una cosa divertente, è una cosa che ci aiuta a sperimentare se siamo curiosi, ma giocare non significa fare le cose a cazzo di cane, anche se l'istinto che ci possiamo avere, dato che generare una canzone con l'intelligenza artificiale ci possono volere anche 3 minuti, questo non significa che è l'approccio giusto. Secondo me, comunque, costruire una canzone, metterci l'intenzione, il motivo, scriverla come si deve, generarne tante fino a che non si arriva al risultato, secondo me è comunque una cosa positiva. E comunque ogni giorno noi ogni tanto linkiamo notizie, appunto, dal nostro blog, e aggiorniamo sul bollettino, ovviamente, delle canzoni arrivate, visto che diciamo che le iscrizioni finiranno a fine dicembre, quindi c'è molto tempo, però è vero pure che il massimo delle canzoni sono 30, quindi arrivate a 30 canzoni comunque le iscrizioni si chiuderanno in automatico. Non voglio mettere fretta a nessuno, perché capisco che magari c'è gente che ci sta lavorando, però ieri sera noi siamo arrivati già a 5 canzoni, che significa praticamente avere praticamente la metà di una serata già riempita. Poi magari la cosa rallenterà oppure la cosa accelererà, non lo so, questo, però sono comunque contento che c'è gente che ci sta mettendo l'attenzione, anche persone che non conosco, perché io ho messo un annuncio pure su Facebook, chi vuoi non vuoi comunque e su Instagram, vuoi o non vuoi, queste cose portano sempre comunque un po' d'attenzione anche esterna rispetto a quello che è il nostro circoletto solito classico. E mandate, aspetto le vostre canzoni, che tra l'altro è la parte che mi stimola di più, perché sono veramente curioso di sentire le canzoni e qualcosa di bello arriva. È incredibile, perché comunque, ribadisco, se uno ci lavora, questo funziona. Mentre ieri sera stavo studiando la sintassi, diciamo perlomeno i comandi fondamentali che si mettono tra parentesi quadra, sia di Suno che di Udio, e ho fatto una sperimentazione, volevo fare una sperimentazione, quindi ho fatto una canzone ieri sera che è completamente, non c'ha nessun senso, cioè non è che mi sono messo lì a scrivere un testo, anzi il testo l'ho fatto completamente generare a Claude, proprio perché mi serviva solo per fare una sperimentazione. La sperimentazione non è riuscita per quello che pensavo, cioè dando dei comandi all'interno della lyrics per fare delle variazioni e roba del genere. Però poi è uscita fuori una canzone che è caruccia, che per me è caruccia, e quindi ve la faccio sentire, giuro, è l'unica canzone di intelligenza artificiale di questa mattina. Sono un razzo spaziale pronto a decollare, con la testa tra le nuvole non mi puoi fermare, giro con una trottola in questa festa cosmica, la gravità suona la mia gioia atomica. Whoa, oh, oh. Balliamo sul soffitto, oh, oh, il mondo è capovolto, pazzia contagiosa, allegria vorticosa, questa è la vita che ho sempre sognato. Oh yeah! Stato come un canguro con le molle ai piedi, rimbalzo sulle pareti, tu non ci credi, ho ingoiato arcobaleni, sputo coriandoli, la realtà roverei, ti pigiamo da randaggi. Oh oh oh, balliamo sul soffitto, oh, oh, il mondo è capovolto, pazzia contagiosa, allegria vorticosa, questa è la vita che ho sempre sognato. Oh yeah! Come un canguro con le molle ai piedi, rimbalzo sulle pareti, tu non ci credi, ho ingoiato arcobaleni, sputo coriandoli, la realtà roverei, ti pigliamo da randaggi. Oh oh, balliamo sul soffitto, oh, il mondo è capovolto, pazzia contagiosa, allegria vorticosa, questa è la vita che ho sempre sognato. Che bisogna essere seri, lascia a casa la noia, vieni a far festa fino a ieri, gira salta vola, non c'è gravità, in questo universo pazzo di felicità. Oh oh, balliamo sul soffitto, oh, il mondo è capovolto, pazzia contagiosa, allegria vorticosa, questa è la vita che ho sempre sognato. Oh oh, balliamo sul soffitto, oh, il mondo è capovolto, pazzia contagiosa, allegria vorticosa, questa è la vita che ho sempre sognato. La festa non finisce, continua all'infinito, nel cosmo della gioia dove tutto è permesso. Whoa, oh, whoa, oh, yeah. E vabbè, è venuta sta cosa così carina, del tutto pazza, non so, senza nessun capo né coda, perché volevo fare appunto dei lavori sulla sintassi che evidentemente non sono venuti. Devo ancora approfondire questa cosa, perché noi usiamo comunque quelli che sono i comandi base, diciamo versetto, ritornello, bridge, outro, intro, però so che insomma alla fine si possono fare diverse cose con diversi comandi, anche se poi magari la sintassi cambia da software a software. In generale l'unica cosa che succede a fare è per esempio il guitar solo, quindi quello c'è, nel senso l'assolo di chitarra si può fare con tanti altri strumenti, quindi diciamo che in linea massima piano piano, se si studia, si evolve anche sul come strutturare le canzoni. Però è venuta fuori una cosa carina, comunque alla fine mi ha fatto sorridere questa canzone, perché è talmente la canzone del pazzerello degli anni 80 proprio. Sono un razzo spaziale pronto a decollare, mi ha fatto troppo ridere, che tra l'altro mi ha ricordato la famosa barzelletta di Data su Star Trek, che nessuno gli faceva mai finire perché era una barzelletta sconcia, ma quello è un altro discorso. sapete, per un sondaggio che è stato fatto ieri da Runtime Radio, che Leo Vargion, al raggiungimento delle 500 puntate, sospenderà, diciamo, il mattino all'ora in podcast. Io ho parlato molto anche con Leo, ci siamo confrontati, concordo col fatto che se lui ha l'esigenza di fare questa cosa è giusto che lui la faccia, anche per migliorare, per strutturare magari meglio un'idea, per pensare a qualcosa che lo ricoinvolga, diciamo, di più, e che questo poi possa giustamente portare magari all'ideazione di un nuovo prodotto. Anche se io penso che, ma questo poi è un discorso che faccio io da speaker per come lo faccio io lo speaker, cioè nel senso, senza nessuna tecnica specifica, senza nessun approccio proprio tecnico, che è quello ovviamente di prendere e beh, parlare come faccio sempre, e nel senso, io penso che la cosa più che strutturata ti deve andare, cioè ti deve proprio la voglia di farlo. Se non c'è la voglia, è inutile ovviamente proseguire e continuare su questo tipo di discorso, e ci tenevo a dirlo perché ovviamente capisco che se ha un'esigenza di fare uno step in avanti è giusto che comunque si prenda il tempo. Però anche nella sua riflessione, e anche nella riflessione che abbiamo fatto ovviamente successivamente, c'è questa cosa del libro game che lui sta ipotizzando di lasciare come rubrica a sé stante, quindi chiudere il concetto di rubrica de, il mattino all'ora in podcast, ma pensare proprio a un progetto dedicato al libro game, dove magari lui si riserva ovviamente di fare questa live a settimana, perché era una cosa che gli piaceva fare e che coinvolgeva comunque le persone che l'ascoltavano, che è una cosa abbastanza importante. Ieri abbiamo fatto questo sondaggio e che adesso dopo vado a ripescare, anzi se qualcuno me lo ripesca al volo, perché in questo momento non ce l'ho sotto mano. Secondo me comunque alla fine già il fatto che c'è stato un numero di persone che ha partecipato al sondaggio dimostra l'interesse nei confronti di Leo, quindi la voglia di ascoltarlo indipendentemente da tutto, e questo insomma è una cosa che ci fa piacere. Però resta il problema del presidio del lunedì, che è una cosa che a noi non ci sarebbe mai venuto in mente di fare live la mattina alle 7 se non fosse stato proprio per Leo. Leo ha iniziato questa cosa e ha dato anche un input anche a noi. All'inizio io e Michela lo facevamo, quindi alla fine coprivamo, non dico tutti i giorni, però insomma almeno 3-4 volte a settimana, soprattutto all'inizio, la mattina alle 7 c'era sempre qualcosa più o meno, no? Quindi c'ero io e Michela, poi io ho fatto Buongiorno un cazzo che poi è diventato il grande reset e via dicendo. Questa cosa si è assestata un pochino, perdere ovviamente il mattino all'ora in podcast, con tutto il rispetto che ovviamente lasciamo, per noi ci lascia un po' una sorta di sguarnitura da questo punto di vista, di sguarnigione. L'italiano è una cosa importante, mi hanno detto, io non so mai stato d'accordo comunque con questa cosa, perché è giusto che ognuno parli la lingua che pensa di dover parlare. E quindi praticamente a me mi è venuta un'idea che ho provato a condividere ieri su Runtime, ma ho visto insomma che non ha ricevuto molti feedback, ma poi magari ne parleremo, perché sarebbe figo che magari prendo io l'incarico di fare questa cosa e lunedì mattina fare una live dove si fa il sunto in maniera brillante, nel senso anche ironica, anche canzonatoria, diciamo, prende un po' in giro diciamo il sunto di quello che è successo nel weekend sportivo, che può essere anche altri sport, non necessariamente solo il calcio. E per fare una cosa del genere ovviamente serve un po' la partecipazione di più persone, però per esempio può succedere che il venerdì sera, alla fine della giornata sportiva, qualcuno prende il cellulare, registra insomma il suo contributo, poi il sabato la stessa cosa, la domenica, oppure uno magari segue una squadra piuttosto che un'altra, o uno sport piuttosto che un altro, con questi audio che magari mi arrivano, io tramite insomma un staiuzza di qua, scuci di là, posso tranquillamente costruire praticamente un episodio di un'oretta, 45 minuti, da fare il lunedì mattina e stare in compagnia e scherzare scherzare e giocare e commentare anche quelli che sono i contesti sportivi della giornata. Ecco, quindi farò un sondaggio anche su questa cosa qui e mi piacerebbe sapere poi che cosa ne pensate, se secondo voi, dato che con Walter ci ragioniamo tanto, ma ci abbiamo ragionato anche con Alex negli anni, proprio negli anni, non è solo perché noi parliamo di questa cosa da, non dico da una decina d'anni, ma quasi che non abbiamo mai avuto la trasmissione sportiva, a volte giustamente, a volte forse è stato anche meglio così, perché magari con le trasmissioni sportive si finisce per discutere, ma se lo si approccia con il divertimento e lo spirito giusto, secondo me può essere una cosa positiva, perché anche se qui c'è magari chi è milanista, chi è interista, chi è da Roma, chi è da Lazio e via dicendo, quindi tendenzialmente può essere un cagaglio sta cosa, in realtà secondo me se la prendiamo con lo spirito giusto può essere una cosa divertente. Say you only ever wanted love. Love me high. Oh. Sei su Runtime Radio, la talk radio geek. E prima di chiudere la trasmissione voglio parlare dei nazisionisti, che è una cosa importante, perché non si può non parlare dei nazisionisti, e voglio condividere con voi un ricordo che mi si è sbloccato, sai, anche quello ieri mentre ascoltavo la trasmissione, e mi è sempre venuto in mente il fatto che gli ebrei, quando raccontavano la loro storia, che per carità è una storia iperdrammatica sulla quale non si può discutere e non si deve discutere, nonostante i tentativi di revisionismo che l'estrema destra ha provato a fare nei decenni, insomma, successivi alla Seconda Guerra Mondiale, loro si sono sempre raccontati come quelli col cappello storto, quelli vestiti male, quelli poverini, no? Quelli, è un po' la Ronne Piperno, ecco. L'ebreo si è sempre raccontato come la Ronne Piperno della situazione, quello, ma io c'ho ragione, io ho lavorato e tu mi devi dare i soldi. Questo è loro si sono sempre raccontati in questa maniera così un po' pietosa, no? Un po', io sono il povero ebreo che tutti quanti mi prendono a calci in culo. E questa cosa ovviamente ha influenzato in una maniera preponderante la cultura universale e la cultura mondiale in generale, no? E lo ha fatto talmente tanto che questa cosa mi ha ricordato quando succedevano degli eventi, no? Che ne so, targa intitolata al tizio ebraico della comunità ebraica a Roma, imbrattata con le svastiche, e noi i giovani di sinistra che scendevamo in piazza con i giovani della comunità ebraica contro il fascismo, contro la destra, contro il razzismo, contro l'antisemitismo. E poi io mi ero costruito questa cosa, dico, perché in fondo per loro anche per cultura, no? Sono predisposti a questo tipo di approccio. Poi più li conoscevo e più ci litigavo anche all'interno delle manifestazioni stesse, perché io ci litigavo con sta gente. Ci litigavo perché ovviamente per loro, vabbè, poi ne parlerò di questa cosa, perché è inutile poi approfondire adesso questa questione qui. E poi invece nella storia mi sono reso conto che a loro non gliene frega un cazzo di destra, di sinistra, di sopra e di sotto. Loro gli frega un cazzo solo delle cose che interessano a loro, dei loro diritti e dei loro privilegi che Dio gli ha dato in terra, e che non gli rompete il cazzo. Perché poi tutti questi ebrei che noi abbiamo mandato in televisione durante questi mesi sono venuti nelle nostre televisioni alla nostra popolazione a dire che è giusto quello che stanno a fare e che non gli dovete rompere il cazzo, perché sennò vengono a cercare pure a voi, perché questo è quello che fondamentalmente sta succedendo. E però dall'altra parte che succede? Un po' come nel frattempo o nello stesso momento, intanto a casa Zelensky, che sta succedendo nel frattempo a casa Zelensky? Che Zelensky è rimasto da solo, sta là, si guarda intorno, ma non dobbiamo fare un incontro che se dobbiamo vedere tutti, perché a me armi, perché poi lui armi a oltranza, lui non gliene frega un cazzo di niente di nessuno, anche perché poi con sta storia della legge marziale lui sta prorogando chiaramente le elezioni democratiche, perché sa che ovviamente verrà spazzato via dalle prossime elezioni, molto probabilmente, no? Perché comunque lui è un po' causa tutto questo che è successo, e quantomeno non è stato in grado di capire i segnali quando era il momento di intercettare delle possibilità che poi magari nei decenni avrebbero potuto pure trovare altri tipi di soluzioni, no? Che poi è quello che mo adesso gli sta di l'Europa all'Ucraina, gli dice vabbè dai, però insomma cominci a pensarci all'idea di... Poi dopo magari con la diplomazia se li ripriamo sti territori, perché mo il problema è Israele, giustamente, cioè, e adesso tutti sono concentrati su Israele, poi vabbè ci sono pure le elezioni americane, quindi manco lo dico. E poi, come giustamente ha detto Walter ieri sera, questo atto di arroganza che è arrivato a un limite incontrovertibile, e questa cosa ti fa capire quanto c'è proprio un blocco culturale ed economico a livello mondiale per quanto riguarda il discorso dell'Occidente capitalista, perché evidentemente a questi, per ragioni probabilmente o quasi sicuramente economiche, non gli si può dire un cazzo. Questi te vengono dentro casa, te vengono sotto casa, t'ammazzano tuo figlio, ma tu non gli puoi di niente. E anche se la Slane, dopo decenni che lo diciamo tutti quanti, andando in televisione a dire, chiariamo che criticare Israele non significa essere antisemiti, porca puttana, perché sennò è assurdo, no? Cioè, nel senso, se noi dobbiamo stare lì a dire che comunque ogni volta che io, che ne so, critico un armeno, allora so anti-armeno, cioè, oppure se dico che la Roma non sta andando bene in campionato, sono anti-romanista, cioè, che cazzo di discorsi so? Avete rotto i coglioni, veramente avete rotto i coglioni, cioè è una cosa inconcepibile. Quindi stiamo lì con questi che bombardano le basi NATO e quell'altro che telefona ancora, oh ma io sto ancora qua a aspettare, che insomma vedete. E questo è tutto frutto di questo universalismo occidentale che vede noi come i buoni verso tutto il resto del mondo, però i buoni solo quando cazzo ci frega a noi, solo quando ci interessa, perché sennò anche chi se ne frega. Ecco, volevo dirla questa cosa, perché poi, come ho detto, io c'ho una puntata che dovrò fare, però come ho detto anche a Walter o agli altri, è una puntata dove dirò cose che a nessuno di voi farà piacere sentire, e non vuol dire che io c'ho ragione, sia chiaro, naturalmente, ma io sono convinto delle cose che dico perché c'ho troppa esperienza dietro, ho visto, letto, studiato troppa roba per pensare che quello che avrei da dire non sia quantomeno una possibilità. Ah, belli di casa, siamo al finale di questo meraviglioso appuntamento con il grande reset di lunedì, sì, di venerdì. Mi dispiace, Walter, allora, non sono molto d'accordo, perché è geniale l'idea, il gioco di parole, però secondo me dobbiamo, manca, per quelli più giovani, secondo me manca l'elemento, il tag, cioè manca proprio la... l'elemento sportivo, cioè noi lo capiamo che significa, perché ovviamente veniamo dalla generazione dove abbiamo visto Roscio Maledetto che tutti i lunedì sera. Però insomma ha avuto un'idea carina sulla quale ci si può lavorare, ma prima di poterci lavorare bisogna capire se c'è l'intenzione di farlo, perché se no è un po' complicato. Vi ringrazio di essere stati qui con me, come ho detto, insomma, caro Francesco, io ci ho creduto veramente, la rimandiamo la prossima settimana. Questa settimana comunque qualcosa da dirci l'abbiamo trovata, ci abbiamo avuto pure il rantolo di fine puntata, e vi ricordo che è uscito Snap Architettura Imperfetta, vi ricordo che sta per uscire una live che abbiamo fatto con Alex mercoledì sera, uno speciale di Techno Pills sullo strumento audio di Google Notebook LM, che ho avuto modo di scoprire grazie a Walter, mi ha avvisato che c'era questa cosa, più ovviamente altre funzioni che stanno sempre crescendo in questo ambito dell'intelligenza artificiale, soprattutto dal punto di vista audio stanno succedendo veramente delle cose incredibili. E per il resto vi ricordo insomma sempre di partecipare scrivendo a runtimeradio@gmail.com alla Festival della Canzone Artificiale, scrivendo in oggetto FDC